9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno caro ascoltatore, invece dalle 9 alle 10 vi tocca questo rompiscatole del gattaccio Oscar. Di cosa ci occupiamo oggi? Ci occupiamo di un tema, secondo me, di cui bisognerebbe parlare più spesso. Ci occupiamo delle carceri. Ci occupiamo delle carceri perché, come diceva Voltaire, se vuoi giudicare la civiltà di un paese, guarda anche la civiltà delle carceri di un paese. Siamo al massimo storico della nostra popolazione carceraria, con oltre 68.000 individui in un sistema che è tarato per ospitarne 40.000. Tenteremo di capire qual è la condizione attuale, come e perché tutti i provvedimenti che vengono di volta in volta assunti, dichiarati per uscire dall'emergenza, di solito non riescono. Se bisogna pensare ancora una volta a provvedimenti di legge svuota carceri, e soprattutto se le iniziative per il reinserimento, per dare lavoro a chi sta nelle carceri e sconta, come è giusto che sconti, perché la pena deve essere certa, delle pene di afflizione sulla libertà, possano avere più spazio per una maniera di vivere le carceri ancora finalizzata a quello che vuole la Costituzione. A tra poco, diteci come la pensate. Intanto linea al giornale radio. 9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, e a che cosa dedichiamo oggi la puntata di questo 5 di agosto? La dedichiamo al tema delle carceri nel nostro paese. Direte, ma come, siamo ad agosto, siamo in vacanza? Eh sì, io temo che sia giusto dare attenzione a questo tema, secondo me a torto trascurato. Prima però di occuparci del tema delle carceri, tanto per dare anche soddisfazione agli ascoltatori che spesso dicono che diamo loro poco spazio, vorrei leggervi una lettera che mi sembra il commento giusto rispetto al quale commisurare quello che trovate sui giornali di oggi. Oggi i giornali sono pieni naturalmente delle cronache, delle conseguenze politiche successive al voto di ieri alla Camera, intorno alla mozione di fiducia al sottosegretario Caliendo. Tutti i giornali si interrogano su cosa voglia dire per il governo quei 299 voti, quindi sotto naturalmente la soglia della maggioranza alla Camera. Molte parole sulla possibilità che ci si debba preparare al voto, come dice Silvio Berlusconi, che si debba andare al Colle. C'è un ascoltatore che, rispetto alle chiacchiere della politica, ci richiama al dovere delle cose concrete, e per una volta leggiamo la sua lettera. Dice: cara redazione della versione di Oscar, non vi sarà sfuggita l'ultima trovata del purtroppo deludente, parla del ministro Tremonti e così via. Perché, per essere sintetici, piccole aziende come la mia in questo periodo di crisi hanno come unico lavoro, poiché noi siamo attivi nell'arredo casa, quello che riesce a trovare grazie alle agevolazioni fiscali. E il governo si è inventato una ritenuta di acconto del 10% operata dalle banche sui bonifici di pagamento effettuati a saldo delle fatture sui lavori di ristrutturazione edilizia, che hanno un incentivo del 36%, e di risparmio energetico, dove l'incentivo è del 55%. Di fatto il 100% del nostro fatturato in questo periodo di crisi viene da questo tipo di lavoro, e il guadagno medio in questo periodo, data la concorrenza e la penuria del lavoro, si aggira tra il 7% e il 10% lordo. Ma se lo Stato con questa nuova trovata si prende il 10% del fatturato, noi con che cosa campiamo? Beh, poi ci sono alcune considerazioni sul fatto che l'elettore in questione avesse votato per questa maggioranza e non sa se ha lo stesso coraggio. Si firma DT, io dico solo le iniziali, perché ci sono alcune considerazioni poi sulla finanza e sul fisco che vi risparmio. Perché l'ho letta? Semplicemente perché io spero che la politica si metta una mano sulla coscienza e, rispetto a tutte le evoluzioni di instabilità che ci promette, ricordi che impegno aveva con gli elettori, e ricordi anche che gli elettori di solito tendono a ricordare molto di più loro quello a cui avevano tenuto, dato fiducia con le loro promesse e con il loro voto dato, rispetto a quello che poi vedono realizzato. Punto e a capo, perché io ho altre parole sull'evoluzione politica, non ne faccio oggi, e andiamo invece alla questione sulla quale vi chiedo di intervenire chiamando il numero che conoscete, 800 24 00 24. Perché? Perché la situazione delle carceri nel nostro paese, malgrado l'indulto, ricordate, del 2006, su cui tanto si è discusso, malgrado anche le tante promesse, ne ricorderemo alcune, che sono state assunte impegnativamente dal ministro di giustizia Alfano proprio per affrontare l'emergenza delle carceri, e ciò malgrado un sistema, quello carcerario nel nostro paese, tarato per ospitare 44.000 unità, è a livelli record invece perché al 30 giugno le presenze erano 68.278, stiamo parlando di una media di poco inferiore ai 1.000 nuovi ingressi al mese, quindi noi siamo indirizzati a superare la quota di 70.000 individui in un sistema tarato per ospitarne 44.000. Io ricordo che il governo ha assunto all'inizio dell'anno, su forte volontà del ministro Alfano, che ha dato poteri emergenziali al sistema penitenziario per tutto l'anno, un piano con stanziamento di alcune centinaia di milioni di euro volto a superare in maniera strutturale il problema del sovraffollamento rispetto a ciò che offre il patrimonio dell'edilizia carceraria nel nostro paese, quindi più padiglioni in vista di nuove carceri. E nel frattempo il governo e il ministro Alfano pensavano di affrontare il periodo intermedio, nel mentre si tentano di realizzare questi obiettivi, anche con un nuovo provvedimento legislativo, con un disegno di legge d'iniziativa del governo. Questa misura si chiamava, nella vulgata giornalistica, disegno di legge salva carceri, svuota carceri, scusatemi. E perché si chiamava svuota carceri? Perché proponeva all'attenzione del Parlamento la possibilità di alcune misure alternative per scontare fasi della pena fuori dal carcere, nel caso in cui le pene fossero al di sotto di una certa soglia o al termine del periodo in cui si scontavano, con l'affidamento in prova. Tuttavia, su quel disegno di legge, all'inizio di maggio, con il ministro Maroni c'è stata un'incomprensione forte. Il ministro Maroni rilasciò alcune dichiarazioni in cui, dicendo che a suo giudizio quella misura avrebbe avuto effetti, e cioè di rilascio fuori dalle carceri di oltre 10.000 carcerati attuali, e che il ministro dell'Interno a quel punto non poteva rispondere del fatto che lo Stato aveva uomini e mezzi adeguati per poter poi monitorare queste 10.000 e oltre persone. E quindi il risultato di tutto questo è stato che il provvedimento alla Camera ha avuto lo stralcio di due articoli. Mentre il resto del provvedimento poi è andato al Senato dalla Commissione, per il resto, invece che andare in aula, è tornato indietro la Commissione Giustizia della Camera. Quindi la misura è finita, come spesso capita ai provvedimenti in materia carceraria, su un binario apparentemente morto. Quindi attualmente, sempre che, per esempio, voi che ascoltate siate d'accordo alla necessità di una misura, sia pur temporanea, svuota carceri, comunque la politica non ha trovato una convergenza su questo. Dopodiché vi sono tante iniziative che partono perché all'interno del sistema penitenziario bisogna dare atto, secondo me, io da anni seguo la faccenda, che non solo tante associazioni civili di segno diverso, Antigone una per tutti, ma molte anche cattoliche tentano di darsi da fare per questo, ma soprattutto, innanzitutto, si dà da fare chi ha la testa all'amministrazione penitenziaria, che tenta di fare l'impossibile pur avendo risorse limitate, perché pensate che in 3 anni o poco meno le risorse del DAP, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sono scese da, erano 2.8, quasi 2.9 miliardi a 2 miliardi e 204 milioni, quindi i tagli sono stati pesanti. Pensate che in tutto, poiché DAP elabora molti dati che trovate sul portale del Ministero di Giustizia, c'è una sezione che riguarda i dati dell'amministrazione penitenziaria, questi 68.000 e oltre detenuti ci costano in media non più di 113 euro a testa nel 2010. Stiamo parlando di una spesa media giornaliera, 198 euro è la spesa media giornaliera per detenuto nel 2007, pensate che è scesa da 198 euro a 199 a 113, di questi 113 95 vanno al personale, la polizia penitenziaria, di cui ricordiamo che è sotto organico e con forti lamentele del sindacato per circa 6.000 unità. e oltre a questi 95 euro che vanno al personale ce ne sono 7,3 che vanno a cibo, igiene, assistenza e istruzione dei detenuti, 5,6 per la manutenzione delle carceri, 4,7 per il funzionamento delle carceri, cioè elettricità e acqua, 8 centesimi in tutto sui 113 euro di spesa media giornaliera, 8 centesimi per le attività di trattamento e assistenza psicologica, 11 centesimi per le attività scolastiche, culturali, ricreative e sportive, 11 centesimi. E naturalmente a quel punto abbiamo a che fare anche con il problema di capire quanto di una pena, di cui queste sono le modeste ma diciamo sincere destinazioni delle magre cifre che destiniamo loro, possa a quel punto essere volta alla rieducazione e al reinserimento. Fine dell'introduzione per toccare uno dei tanti altri punti che abbiamo chiesto agli ospiti di svolgere. E l'Agenzia Nazionale del Reinserimento Lavoro per Detenuti ed Ex Detenuti sta muovendo passi importanti, e questa è a propria volta una parte fondamentale della finalità a cui deve essere volta la pena in carcere, con importanti convenzioni che vengono sottoscritte da associazioni in alcune regioni italiane. Tenteremo di capire quanto, come e se tutto questo può alleviare il problema. Allora, innanzitutto gli ospiti, per sentire da loro la condizione delle carceri. Quali ci abbiamo attualmente? Il Emilio Di Somma, che è il vice capo. No, il vice capo del DAP arriva tra 5 minuti, non siamo ancora riusciti ad avere il collegamento, perdonate, ma in diretta avevo letto il suo nome che è già collegato. Avremo con noi comunque Emilio Di Somma, che è il vice capo vicario del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Poi abbiamo Patrizio Gonnella, che è presidente dell'Associazione Antigone, Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale, benemerita osservatrice e animatrice di dibattiti intorno a questo tema che spesso viene trascurato. Buongiorno e grazie a Gonnella. Buongiorno a voi. Abbiamo Salvo Fleres, che è un senatore del PDL ed è garante dei diritti dei detenuti della Regione Sicilia e coordinatore della conferenza regionale dei garanti. Queste figure nel nostro ordinamento devono appunto occuparsi istituzionalmente delle condizioni carcerarie nelle diverse regioni. Lo saluto e inizierò proprio con lui, e poi saluto l'ultimo ospite, che è Giuseppe Ongaro, imprenditore, presidente di Lavoro e Futuro SRL, un'azienda veronese, e vedremo come questa azienda si sta dando da fare proprio facendo lavorare i detenuti. Però comincerei con l'onorevole Fleres. Buongiorno senatore. Buongiorno. Allora, lei, di fronte a un'ondata che è in corso, perché noi abbiamo avuto quasi già 40 suicidi dall'inizio dell'anno tra la popolazione carceraria, e abbiamo avuto anche diversi suicidi tra le guardie penitenziarie e anche addirittura il procuratore alle opere penitenziarie in Calabria si sono tolti la vita, quindi c'è un malessere molto forte, e lei in questi giorni, come garante in Sicilia, ha detto: io qui non so più come fare di fronte a questo, se la cosa continua così potrei anche prendere in considerazione l'ipotesi di una iniziativa. Quale, senatore Fleres? Quella di costituirmi parte civile per tutti i fatti, gli episodi che si sono verificati nelle carceri, alcuni dei quali presentano elementi di scarsa trasparenza. Voglio dire che io ho operato in qualità di garante sfruttando anche la mia funzione parlamentare, e quindi oltre alle iniziative diciamo che riguardano il mio ufficio, ho intrapreso una serie di iniziative di natura parlamentare per sollecitare il Ministero e in particolare l'amministrazione penitenziaria verso l'adozione di provvedimenti che ritengo debbano essere assunti immediatamente senza ulteriori remore. Mi riferisco in particolare alla necessità di utilizzare meglio le poche risorse che sono state attribuite al DAP. Io ho sentito poc'anzi che lei ha fatto un'analisi piuttosto dettagliata di quelle che sono le somme, vorrei cominciare proprio commentando queste. È vero che nel 2007 la spesa per detenuto era di 198 euro e nel 2010 di 113 euro, ma questo è dovuto al fatto che nel frattempo sono quasi raddoppiati i detenuti, quindi il costo medio si è venuto ad abbassare a danno sostanzialmente della quantità e della qualità dei servizi che vengono garantiti ai detenuti. L'amministrazione penitenziaria, per quanto mi riguarda, è un'amministrazione piuttosto autoreferenziale perché a fronte, per esempio, di una carenza organica di circa 5.000 unità di guardie penitenziarie, per esempio continua a utilizzare molti agenti della polizia penitenziaria, per esempio per la gestione dei bar negli istituti, cosa che invece potrebbe essere affidata agli stessi detenuti, continua a utilizzare le guardie per fare scorte ad autorità che potrebbero essere scortate da altro personale della polizia, dei carabinieri, insomma da altro personale che ne ha i titoli. È un'amministrazione che continua a sprecare personale perché per esempio non dota le celle degli istituti di una doccia, soltanto il 20-25% delle celle è dotato di una doccia. Questo significa utilizzo improprio del personale che anziché svolgere attività di custodia è costretto ad accompagnare dalla cella alla doccia e viceversa periodicamente i reclusi. È un'amministrazione che non si dota per esempio di porte automatiche nei diversi bracci, cosa che naturalmente aumenta il numero di personale utilizzato per fare il portiere piuttosto che per fare la guardia, con tutto quello che questo significa. È un'amministrazione che trasferisce a una settimana dal fine pena detenuti dal carcere di Opera a quello di Favignana, e se lei pensa che il costo di un trasferimento, di una traduzione, come si dice in termine tecnico, varia dai 1.000 euro ai 4.000 euro in base alla distanza e al numero di agenti impegnati, lei comprende come all'interno di quell'amministrazione evidentemente ci sono delle questioni che vanno affrontate e anche in fretta. Il paradosso dei paradossi è che nel bilancio dell'amministrazione penitenziaria ci sono addirittura 500.000 euro destinati a studi per il contenimento delle spese, quando il contenimento delle spese e le modalità per contenere le spese sono sotto gli occhi di tutti. Mi sembra un paradosso che conferma soltanto l'autoreferenzialità di quell'amministrazione, tutta a danno naturalmente del servizio reso ai detenuti. Ora ci ha raggiunto il Emilio Di Somma, che è il vice capo vicario del DAP. Prima di dargli la parola e di ringraziarlo, voglio anche informarvi che nel frattempo l'agenzia ha appena battuto questa notizia, che il garante dei detenuti del Lazio, cioè Angelo Marroni, ha espresso la propria solidarietà e vicinanza al vice capo del DAP, cioè Emilio Di Somma, cui è stata indirizzata una lettera di minacce con all'interno due proiettili. E dice il garante del Lazio: l'intimidazione al vice capo di un'istituzione importante come il DAP è inquietante e ci preoccupa, perché Di Somma svolge da anni un lavoro prezioso che gli riconosciamo tutti. Ci tenevo prima di salutarlo e ringraziarlo, perché poi in realtà nel salutarlo e ringraziarlo lo mettiamo subito in pista e gli chiediamo di rispondere alle osservazioni che, come ha sentito Di Somma, queste che faceva il garante della Sicilia erano anche un po' taglienti. Cioè diceva: sì, è vero, qua la popolazione è 68.000, però insomma forse è vero che l'amministrazione del DAP è un po', l'aggettivo che riferisco, se non avesse ascoltato, un po' autoreferenziale, cioè tante cose che forse lavorando sul poco che c'è di risorse finanziarie si potrebbe ulteriormente evitare. Parlava di traduzioni, parlava di porte nei bracci che evitano che il personale della guardia penitenziaria svolga funzioni improprie, visto che è sotto organico di migliaia di unità, eccetera eccetera. Quindi lo so che le chiedo di innanzitutto di difendersi, per così dire, però forse iniziamo subito in medias res. Prego. Episodio, voglio dire subito che l'episodio al quale si riferiva Angelo Marroni è un episodio che risale a un paio di mesi sono, purtroppo per me non è stato il primo, ma insomma sono cose che per la verità mi preoccupano molto poco. Mi preoccupa oggettivamente invece la situazione complessiva, o meglio, ritengo che ce ne si debba occupare forse con maggiore intensità di quanto non si sia fatto negli anni scorsi, quando forse eravamo in presenza di tempi migliori e forse qualcosa di più si poteva fare. Certamente la situazione che ci troviamo a governare è difficile, 60.000 detenuti e passa, carenze di risorse economiche, carenze di risorse umane, un sottorganico di 5.000 unità di personale su 45.000 unità di personale, un sottorganico cospicuo che preoccupa. C'è sicuramente da mettere in campo una razionalizzazione dell'esistente, di quello di cui si dispone, ma in questo l'amministrazione è sicuramente impegnata nella ragionare su un nuovo modo di impostare il servizio del personale di polizia penitenziaria, oltre che ovviamente delle altre professionalità che sono presenti all'interno dell'amministrazione. Una necessità di ridisegnare il sistema dei circuiti, una più marcata destinazione di alcune strutture ad ospitare, alla finalità di ospitare detenuti di un certo tipo piuttosto che di un altro. Tutto quello che ovviamente può servire per andare avanti con le risorse che abbiamo, sia economiche che umane, che come è sotto gli occhi di tutti non sono sicuramente propriamente adeguate, ma è veramente strano che in presenza della crescita della popolazione detenuta in modo così elevato, un aggettivo non preoccupante, poi a questo non mi pare che corrisponda una situazione economica tra le più floride, che è vero, sicuramente è vero che la situazione economica non è soltanto drammatica, non è soltanto italiana, ma è europea, è mondiale. Resta il fatto che insomma noi abbiamo da mantenere 68.000 detenuti da mangiare tutti i giorni, partendo dal minimo, insomma dall'indispensabile, e quindi siamo preoccupati per questo. Abbiamo benzina da pagare, abbiamo straordinari da pagare, abbiamo mezzi da acquistare, insomma, in un periodo di vacche magre tutto. Io capisco. Se lo accoppiamo al sovraffollamento, certo che insomma qualche necessità di una più attenta razionalizzazione, una migliore razionalizzazione delle risorse in campo e disponibili è sicuramente necessaria, ma è quello che l'amministrazione sta tentando di fare. Bonnella, non è che siamo qui per fare un processo all'amministrazione, perché io penso che di meglio si può fare, come dice Fleres, ma insomma le risorse sono quelle e la popolazione carceraria è esplosa. Allora, io ho già le prime reazioni degli ascoltatori che dicono ma se lei fosse vittima di un delitto eccetera eccetera parlerebbe così delle misure svuota carceri? È facile fare il garantista con il fondo schiena degli altri, e io credo che questa reazione sia una reazione diffusa tra gli ascoltatori e nella cittadinanza. Poi sono anche convinto che le cifre sulla recidività, cioè di coloro che davvero poi, per esempio, uscire dall'indulto e sono rientrati nel carcere, siano mispercepite dagli ascoltatori e dagli elettori e dai cittadini italiani, cioè la convinzione sia che vi è una fortissima recidività, quando è stata, nel caso, lo dicono le cifre, no? Dice Giannino, nel caso dell'indulto è stata significativamente più bassa della media di coloro che poi fine pena e si trovano poi invece a commettere altri reati, per coloro che hanno approfittato dell'indulto. Però bisogna concretamente sapere che la gente vuole sicurezza, la gente più che garantista vuole innanzitutto la garanzia che non si ricommettano i delitti da parte dei carcerati. Questo è il punto da cui partire. Allora, nel lanciare la pubblicità, chiedo poi a Patrizio Gonnella di cominciare subito dopo dicendo il punto di vista di Antigone sulla situazione attuale, se le misure straordinarie per svuotarle anche con misure di legislazione penale non debbano essere di nuovo a pochi anni dall'indulto, però il passaggio da percorrere intermedio, perché nel frattempo lo stesso ministro Alfano ci ha provato, perché la realizzazione di un obiettivo di un sistema penitenziario in grado di essere meno incivile con queste 70.000 persone che racchiude al suo interno è un periodo lungo che chiede per la sua realizzazione. Pubblicità. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci, parlando di carceri, ci eravamo interrotti con una domanda a Gonnella, presidente dell'associazione Antigone, prego. Sì, prima di tutto c'è da dire che le misure previste all'interno del piano carceri sono ormai delle misure già superate dai fatti, nel senso che le somme che sarebbero state necessarie per costruire tutto il nuovo parco edilizio penitenziario di fatto non ci sono. Ci sono 600 milioni con cui si potrebbero, diciamo, ottenere al limite, se ci fosse una rapidissima costruzione di padiglioni e carceri, qualche migliaio di posti letto, ma l'emergenza va da un'altra parte. Aspetti, io la interrompo perché approfittiamo al volo, facciamoci dire da Emilio Di Somma, vice capo vaticano del DAP, la valutazione tecnica vostra e che cosa si aggiunge davvero dentro l'anno prossimo, lavori e stanziamenti affidati ai lavori in corso, alla possibilità degli attuali stabilimenti, che cosa si aggiungerà, insomma? Noi con gli stanziamenti ordinari di bilancio portiamo avanti un programma di edilizia penitenziaria costantemente ogni anno. Entro la fine di quest'anno dovremmo avere perlomeno 2.000-2.500 posti in più, senza contare il piano che decollerà quando decollerà. Insomma, ecco, per il piano punto interrogativo, però per il momento allo stato attuale entro l'anno si arriva a 2.000 in più. 2.000 in più significa che un sistema tarato per 44.000 arriverà a essere tarato per 46.000 e saremo a 70.000. Allora, prego, Gonnella, riprenda. Nel frattempo ne crescono i detenuti di 1.800.000 unità al mese, quindi questo bisogna sempre tenerne conto. Per quanto riguarda le misure legislative, in realtà il disegno di legge, così come originariamente previsto, quello sulla detenzione domiciliare, la messa alla prova, è stato svuotato. Tra l'altro, la fine della settimana scorsa, un suo testo rimaneggiato è stato approvato in sede deliberante dalla Commissione Giustizia. Però è un testo che adesso andrà al Senato e che, diciamo, se proprio va bene, posto che è un'ennesima misura alternativa affidata alla discrezionalità di decisione della magistratura di sorveglianza, in realtà agirà su numeri molto, ma molto limitati. Però è importante l'inversione di tendenza culturale. Per rispondere alla sua domanda e alle preoccupazioni dei radioascoltatori sulla questione della sicurezza, il punto è: ma di fronte ai 12.000 ingressi di immigrati per non aver ottemperato all'obbligo di espulsione del questore e che permangono nelle celle per qualche giorno, perché ovviamente non si può punire per un reato di questo genere per tanti anni, e che poi riescono e che rientrano nel circuito della irregolarità e quindi non c'è, diciamo, l'effettività del provvedimento di espulsione, questo in realtà non produce sicurezza, produce costi. E questo è il punto, cercare di capire quali sono i delitti che in realtà non hanno vittime, delitti che non sono realmente offensivi, e su quelli parlo dell'immigrazione, ma parlo anche dei consumatori di sostanze stupefacenti, penso a Cucchi, perché Cucchi è dovuto passare dal sistema carcerario con la custodia cautelare, non era necessario, aveva una famiglia alle spalle, si potevano prendere provvedimenti di tipo diverso. Ecco, noi di Stefano Cucchi ne abbiamo tanti, tantissimi, abbiamo livelli di custodia cautelare che non ci sono in tutta l'area dell'Unione Europea, quasi il 45% dei detenuti italiani è presunto innocente. Abbiamo sentito in questi giorni sulla presunzione di innocenza tante parole, ma siamo a quasi 30.000 persone in galera che ancora aspettano il giudizio definitivo, e si tratta soprattutto di gente che ha strumenti di difesa legale molto bassi perché provengono dagli strati più bassi della società. Interrompo Gonnella perché secondo me quella che, se avete colto seguendolo con attenzione, è un riferimento al dibattito parlamentare di ieri, per essere chiari, visto che si parlava di un sottosegretario alla giustizia indagato e di una richiesta di sfiducia nei confronti del sottosegretario perché è indagato. E la maggioranza, seppur fermandosi a 299, a cominciare dal ministro, ha sostenuto, e io la penso così, a dire la verità, che per un indagato non si chiede di andare a casa perché si è garantisti. Non dimentichiamoci però, mentre la politica fa di questo la pietra divisiva di paragone in Parlamento, che le percentuali di coloro che stanno carcerati in questa condizione è così elevata, e questo, a me, devo dirvi la verità, mi sembra una discrasia totale, perché noi facciamo i durissimi con quelli che, come giustamente molti mi state scrivendo sugli SMS, che vi sto sorprendendo perché sarei insensibile all'allarme sociale e voglio che i detenuti escano fuori, che i delinquenti escano fuori. No, ragazzi, qui il problema è che stiamo parlando di una percentuale spaventosamente elevata di gente che noi teniamo in carcere senza sapere se è colpevole o meno, e in quel caso io devo dire che non vedo perché devo fare il garantista col politico e poi devo fare invece il giustizialista con i poveracci e con oltre il 50% di stranieri nelle nostre carceri, perché se noi pensiamo che questa sia civiltà, secondo me è ingiustizia, e allora lo facciamo per tutti, non lo facciamo per nessuno. Io lo vorrei fare per tutti, perdonami se ti ho interrotto Gonnella, ma questo è un punto fondamentale per la civiltà giuridica e per la libertà di un paese. L'eccesso di custodia cautelare, mi sentite parlare spesso di cose come FAS, no, io non dico per tutti, è una piega negativa del nostro ordinamento, perché serve a rassicurarvi a casa, a schiaffare la gente in carcere, tranne che la Corte Costituzionale cambia idea se sono delitti sessuali, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ma in realtà per i tempi della giustizia e per le condizioni del nostro sistema penitenziario significa inciviltà e illibertà assoluta, e questo è una maniera in impropria di soddisfare la legittima sete che abbiamo tutti di sicurezza e di non essere aggrediti, rapinati, stuprati per la strada, perché non c'entra niente, è una maniera di mettersi i principi costituzionali e le leggi sotto i piedi da parte dello Stato stesso. Faccio una domanda a Fleres: in una regione come la sua, cioè come la Sicilia, una regione delicata, stiamo parlando di una delle regioni con i massimi allarmi possibili per la grande criminalità, l'impatto che l'illegalità ha purtroppo in tanti aspetti della vita economica e civile, come si contempera, per esempio, come è possibile per un politico responsabile che svolge la funzione che svolge lei, cioè di garante dal punto di vista regionale di questo sistema che in Sicilia e poi è sottoposto a torsioni particolari visto l'età media del patrimonio immobiliare penitenziario, come si fa a insieme declinare il fatto che i suoi elettori le dicono più sicurezza e non ci mandare la gente fuori, e contemporaneamente a fare quello che ci ha detto prima, cioè a battersi perché poi in realtà non si ha l'inciviltà dietro le sbarre? Guardi, io la ringrazio per questa domanda, così come ringrazio l'associazione Antigone, Gonella e il dottor Di Somma per l'onestà intellettuale e per il lavoro che svolgono. Le rispondo subito: il carcere non è una discarica in cui un cittadino che ha commesso un reato viene gettato e dal quale non ritorna mai più nella società civile, è un luogo ed è un momento nel quale, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, il cittadino sconta una pena per un reato che ha commesso e ha diritto a essere rieducato, a essere reinserito. La società non è estranea al delitto che viene commesso, perché il criminale non è un fungo che nasce all'improvviso di cui nessuno si è accorto. Ha dato ampi segnali della sua devianza nel corso della sua vita, l'ha dato alla famiglia, l'ha dato alla scuola, l'ha dato al quartiere in cui vive, ed è strano, ecco, che non ci sia un intervento, se ci sono molto limitate, un intervento che intercetti la devianza per evitare che poi essa sfoci nel crimine e quindi nel carcere. Nel caso specifico del provvedimento del governo, che io condivido, anzi le darò alcune anticipazioni rispetto a questo tema, il provvedimento così com'è è il tentativo di invertire la rotta, lo diceva Gonella giustamente poc'anzi, è il tentativo di invertire una rotta, un tentativo piuttosto farraginoso, dato che poi la decisione dovrà essere presa dalla magistratura di sorveglianza, che come sappiamo è a sua volta sottodimensionata, lenta e soprattutto priva di supporti da parte degli educatori delle carceri che non ci sono, da parte degli psicologi delle carceri che non ci sono, che sono comunque insufficienti. Allora, ci sono due iniziative che in questo momento sono nate al Senato. La prima riguarda una mozione che nasce dalla Commissione diritti umani del Senato, firmata dal Presidente e dai due capigruppo, da me e dal capogruppo del PD, che prevede il ripristino della Commissione sulle pene alternative. C'era una commissione che era stata insediata nel 2002, se non ricordo male, che aveva avviato un lavoro per l'individuazione di pene alternative da attribuire a reclusi che si a detenuti, a reclusi che si erano macchiati di reati non violenti, di reati cosiddetti minori, e che poteva, diciamo così, individuare una serie di pene diverse. Le faccio un esempio: pochi giorni fa a Palermo è stato arrestato un cittadino perché buttava materassi, masserizie varie per strada. Io credo che un cittadino di questo genere, che certamente ha commesso un reato, vada punito in maniera diversa che non col carcere, magari spazzando la strada principale della sua città o pulendo le aiuole o altro. Così come ci possono essere reati che possono essere puniti con ammende o con altro tipo di pena. Questo certamente agevolerebbe. E quindi questa è un'iniziativa, riprendere questa strada di riflessione. La seconda invece è tutta agganciata al senso dell'articolo 27. L'articolo 27 parla di rieducazione, parla di reinserimento. Bene, attualmente la legge prevede una serie di sconti di pena per chi tiene in carcere buona condotta. È una legge piuttosto generica. La proposta che io ed altri parlamentari abbiamo formulato è quello di aumentare il numero di giornate da attribuire per la riduzione della pena per buona condotta, agganciandole ad un'azione di reinserimento reale, cioè ad un comportamento detentivo da parte appunto del recluso volto per esempio a frequentare attività scolastiche, volto a svolgere attività lavorative, insomma volto a una chiara e manifesta tendenza verso la riabilitazione, verso il reinserimento sociale. Questo contribuirebbe a sua volta a ridurre la pressione numerica, diciamo così, il sovraffollamento nelle carceri. Queste sono due iniziative bipartisan che stanno andando avanti, così come sta andando avanti una terza iniziativa, anche questa bipartisan, che prevede che la pena alternativa non sia combinata dal magistrato di sorveglianza o comunque dalla magistratura di sorveglianza, ma direttamente dalla magistratura giudicante nel momento in cui viene attribuita la pena stessa. Beh, io, a me tocca dire che io faccio gli auguri a questi tipi di tentativi di legislazione. L'esperienza di questi mesi dice che la tentazione di una parte della politica che guarda al bisogno di sicurezza e che si metterà per traverso, se non capisco male, potrebbe aumentare questo tipo di tentazione invece che diminuire. Comunque vediamo in concreto quali saranno lo sviluppo di questi intenti annunciatici dal senatore Flair. Sentiamo come la pensano un po' di ascoltatori. Io devo dire che la maggioranza dei messaggi è per la linea dura, dice la maggioranza degli ascoltatori, ma me lo aspettavo e non polemizzo, rispetto, perché so che questa è la reazione largamente maggioritaria. Sentiamo come la pensano alcuni ascoltatori. Cominciamo con Paola. Paola da Lecco, come la pensa? Pronto? Dica, Paola. Buongiorno. Una cosa, io tempo ho sentito una trasmissione in cui diceva che sono un sacco. Paola, dobbiamo facciamo un altro tentativo, la facciamo richiamare perché si sente un treno ma non si sente lei. Sentiamo invece Enzo da Roma. Sì, buongiorno, mi sente, dottor Giannino? Dica. Io volevo intervenire sul discorso della quota parte di cittadini stranieri che in qualche modo, avendo commesso delitti in Italia, sono condannati a pene detentive in Italia. Sì, che è una parte elevata, insomma. È una parte elevata del problema, perché credo che questa quota si aggiri sicuramente su percentuali superiori al 50%, ecco, se ho ben capito. Esatto. Qualche tempo fa si parlava di un'iniziativa bipartisan per fare in modo, brevi accordi e intese amministrative con le direzioni delle amministrazioni penitenziarie dei paesi di provenienza di questi personaggi, di fare in modo di far scontare le pene nei loro paesi di origine, dove immagino che i costi di detenzione siano incredibilmente più bassi, e mi riferisco specialmente a paesi dell'area mediterranea africana o paesi, diciamo, dell'Asia. Pronto? Sì, sì, stiamo ascoltando. Quindi lei dice che bisogna percorrere questa strada e, insomma, rispedirli, uso un termine improprio, il più possibile nei paesi di provenienza. Sentiamo poi come se è attuabile davvero questa via. Sentiamo Sergio da Bergamo. Sergio, quale opinione ha? Parlo per la realtà di Bergamo. Sì. Io non so se i vostri politici presenti sanno che nella nuova legge finanziaria sono stati ridotti i finanziamenti carcerari, i finanziamenti per le carceri. Sì, sì, lo abbiamo detto all'inizio, sì, sì, certo. Ecco, siamo partiti da quello, Sergio. Ecco, io so che, per esempio, io ho un parente che purtroppo è detenuto, a Bergamo il direttore, che è anche direttore di opera, se non sbaglio, gli ha detto: signori, voi lavorate praticamente gratis, perché praticamente gli riducono di un terzo lo stipendio e alcuni servizi verranno pagati, né più né meno. In più a Bergamo si sta verificando che il 90% dei detenuti sono tutti extracomunitari, i cui parenti sono molto maleducati, hanno delle pretese che poi dopo anche le guardie carcerarie, poche, a Bergamo, perché sono veramente sotto organico, hanno paura. Perché? Perché questi qua vengono con delle pretese a trovare i loro parenti, con un'arroganza tale, e minacciano persino le guardie, che poi vanno di mezzo tutti i detenuti, anche quelli che non c'entrano niente. Grazie anche a Sergio. I problemi della mancanza di risorse sono i problemi che poi, di fronte alle caratteristiche della popolazione carceraria, esplodono in talune realtà. Sentiamo rapidissimamente Paola D'Alecco, abbiamo ripristinato il collegamento. Rapida, Paola. Grazie. Scusi, dovevo... Oddio, aspetta, sento doppio. Ho sentito programmi in cui dicevano che ci sono carceri già costruite ma non fruite. A questo punto, perché invece di dare soldi ancora per costruire altre carceri, non utilizziamo queste se davvero ci sono? Benissimo Paola, siamo riusciti a fare la domanda. Io vado rapido perché siamo in ritardo, abbiamo un'informazione di circolazione stradale, dopo partiamo con Emilio Di Somma, cioè vice capo vicario del DAP, a cui chiediamo una risposta concreta: è vero che ci sono queste carceri e se ci sono pronte perché non vengono utilizzate? Secondo, come si possono ottimizzare al meglio le risorse magre per risolvere in particolare le condizioni di quelle carceri in cui gli extracomunitari sono in percentuale così elevata? 9 in punto, la versione di Oscar. Allora, Di Somma, ma esistono davvero questi complessi carcerari pronti, chiavi in mano, per essere utilizzati e che non vengono utilizzati per cose burocratiche e così via? Sì, purtroppo sì, però io lei mi deve consentire di dire qualcosa anche sulla questione della sicurezza. Noi siamo sicuramente tutti convinti che la sicurezza è un bene fondamentale, nessuno di noi vuole vivere in un paese insicuro, sottoposto a furti, rapine, omicidi e quant'altro. Io trovo molto giusto le cose che ha detto l'onorevole Fredes, anzi lo ringrazio anche per le iniziative delle quali ci ha reso partecipe, io ho già notizie di queste iniziative. Guardi, questo paese si è dato nel 75 un ordinamento che credo che sia uno dei migliori al mondo, che è essenzialmente impostato sul fatto che la pena debba essere scontata, ma non sta scritto nell'articolo 27 che la pena deve essere quella del carcere. C'è scritto che le pene devono tendere alla rieducazione, non la pena del carcere deve tendere alla rieducazione. Questo sistema non è stato mai compiutamente attuato. Noi abbiamo avuto due studi dell'Università di Torino e dell'Università di Roma sulla recidività e abbiamo avuto la dimostrazione, la prova provata, scientificamente provata, che coloro i quali sono ammessi a misure alternative hanno un tasso di recidiva che sfiora il 20%, sfiora anche più basso, mentre coloro i quali scontano fino all'ultimo giorno di carcere hanno un tasso di recidiva che sfiora l'80%. Avrà un significato questa operazione, è molto giusto dire che la sicurezza non si fa soltanto mettendo le persone in carcere, la sicurezza si fa cominciando dalla famiglia, dalla scuola, dai luoghi sociali, dalle università, non c'è soltanto la presa materiale di una persona e la sua collocazione in carcere, c'è tutto un mondo che nasce prima. L'amministrazione penitenziaria e le carceri sono un segmento del concetto della sicurezza. La sicurezza c'è prima, c'è durante e c'è anche dopo, ed è sicurezza anche trovare un posto di lavoro a chi esce dal carcere, perché altrimenti è lavoro sprecato, abbiamo buttato soldi. L'amministrazione penitenziaria consuma quasi il 40% del bilancio della giustizia, deve servire soltanto a fare in modo che sia scontato fino all'ultimo giorno di carcere e poi consentire che quella persona che ha fatto 20 anni di carcere ritorni a delinquere, o deve servire ad altro? Forse su questo bisognerebbe invitare tutti a riflettere. Quindi sono giuste le iniziative alle quali ha fatto riferimento l'onorevole Pérez, tra l'altro quella delle pene alternative combinate dal giudice della cognizione è una misura già prevista all'interno dei testi condivisi da entrambe le parti, centrodestra e centrosinistra, di riforma del codice penale e del codice procedura penale. Potrebbero trovare un'immediata attuazione, si potrebbero cominciare a stralciare queste parti probabilmente. È giustissimo che nel nostro paese c'è una presenza di detenuti in attesa del giudizio assolutamente spropositata, siamo praticamente a 28.000 presenze su 68.000 tra detenuti in attesa di primo giudizio che sono più di 14.000, gli appellanti che sono quasi 8.000, i ricorrenti che sono intorno ai 5.000. Questo falsa completamente l'attività dell'amministrazione, perché nei confronti del condannato, del giudicabile, di colui che è il giudizio, non si può intervenire col trattamento, perché c'è una presunzione di non colpevolezza che gioca a suo favore, potrebbe essere innocente, non si tratta di un innocente, si tratta in senso tecnico una persona per la quale che porta sulle sue spalle una sentenza di condanna passata in giudicato e che sicuramente è stato ritenuto colpevole del reato che gli è stato, del quale è stato ritenuto responsabile. È tutto un sistema che... Certo. Che va rivisto, no, per la verità non va rivisto, va attuato quello che c'è scritto nell'ordinamento penitenziario dal 1975, che è intervenuto quasi 30 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione il 1 gennaio del 48 e che noi fatichiamo a realizzare, ma tutto là sta il discorso, lavoro per i detenuti. Al lavoro ci arriviamo tra un secondo, ci dica, ci dice rapido, questa cosa delle che non ci sono, faccio due esempi, noi abbiamo Rieti, che è aperto con una potenzialità al di sotto del, di molto al di sotto del, del 50% delle sue reali potenzialità, occorre il personale per aprire le strutture penitenziarie, occorre il personale. Noi stiamo facendo un'opera di razionalizzazione e di recupero di energie, di risorse umane sparse in, in tante attività e ci stiamo cercando di ricondurle all'interno dell'amministrazione per poterle utilizzare nelle strutture penitenziarie e quindi con molta fatica ci stiamo riuscendo con molta non fatica. non voglio parlare sopra, ma qui senza risorse anche ciò che è pronto non viene utilizzato. Il problema delle risorse è un problema terribile, perché ovviamente invocando le eccezioni per questo quella parte della pubblica amministrazione, io mi rendo conto il ministro dell'economia dice no, io quella logica dell'eccezione non l'adotto, tagli lineari e così via. Dal che bisogna capire che la conseguenza sarà una, che l'ordinamento, quello a cui faceva riferimento di somma, i principi ottimi a cui è ispirato, continueranno a essere non attuati, perché non ci saranno le risorse per farlo. Quindi a quel punto, a maggior ragione, i provvedimenti su cui la maggioranza di voi che è in ascolto e critica, quelli svuota carceri, diventeranno ancora di più la risposta ordinaria e non straordinaria al fatto che andiamo all'esplosione della popolazione carceraria. Oimè, questo è perché quando si vogliono avere principi al di sopra delle risorse che sono necessarie per attuarli, alla fine i principi capottano e diventa un sistema in cui i poveracci e gli immigrati pagano quello che magari i signori politici non pagano. Questo è il punto di fondo. Scaglia sta in carcere e altri invece stanno dove stanno. Questo è il punto. Più è diverso il livello tra le risorse necessarie ad attuare i principi e l'altezza del principio, più il principio diventa messo sotto i piedi dallo stesso Stato e dallo stesso legislatore che l'ha scritto. Però si parlava di lavoro. Siccome l'agenzia di collocamento per detenuti si sta espandendo come tipo di iniziativa in questi ultimi mesi in diverse regioni, noi abbiamo preferito di occuparci concretamente, facendo parlare del lavoro nelle carceri, un imprenditore, Giuseppe Ongaro, che è presidente di questa Lavoro e Futuro SRL, un'azienda veronese che oggi impegna 68 dipendenti. Sono detenuti nel carcere di Verona, ce ne sono 7 anche condannati per omicidio, guadagnano dai 300 ai 500 qualche cosa euro a testa, e l'abbiamo chiamato perché la mia opinione è che Giuseppe Ongaro, che faceva il manager tagliatore di teste, può testimoniarvi come lavorano i suoi dipendenti detenuti. Prego, Ongaro. Ongaro? Non c'è più? Sì, Ongaro, eccolo qua in linea. Ecco, come lavorano i suoi dipendenti detenuti? Buongiorno a tutti, intanto. Ma lavorano bene, nel senso che noi fungiamo come un collettore, diciamo, che unisce e incomincia e parte dal rispetto, perché il lavoro è rispetto, bisogna avere lavoro per i propri colleghi di lavoro e per i datori di lavoro, all'arrivare ad imparare un lavoro. Quindi noi all'interno facciamo lavori veri, anche perché come SRL non attingiamo a nessun tipo di finanziamento e quindi è un circuito sostenibile. Questo cosa vuol dire? Che all'interno si impara a fare il saldatore piuttosto che l'assemblatore e via discorrendo, che sono poi lavori spendibili una volta finita la pena, e molte volte accade che i nostri clienti assumono ex detenuti nostri. Perché? Perché hanno già imparato il lavoro che poi andranno a fare in fabbrica tale e quale a quello che facevano quando erano persone dipendenti. Ma di quante etnie sono i suoi dipendenti? Oh, dunque, io ne ho circa una dozzina, quindi ho la rappresentanza, credo, del mondo intero, insomma, o quasi. Ecco. Quindi c'è anche una forte integrazione tra etnie, e questo è un altro punto, direi, a vantaggio, perché fa comprendere che il lavoro accomuna. Allora, io mi devo prendere un impegno con lei, perché io l'ho tenuto un'ora a telefono per farla parlare 2 minuti e questo è ingiusto. Però siccome noi faremo prestissimo una puntata sul lavoro manuale, è un tema su cui torna spesso il ministro, io la richiamerò quel giorno in trasmissione, comunque in questo mese di agosto, se lei può, perché c'è qualche cosa che lei secondo me ci può dire molto più ampiamente di questo poco tempo di cui indegnamente l'ho messo a parte, e la ringrazio per questa cosa, in quest'ora che le ho sottratto oggi. In cambio me ne prenderò un'altra, ma più utile anche per lei e per l'impresa sicurezza e per i suoi dipendenti che ci stanno molto a cuore. Ringrazio anche il senatore Salvo Fleres, Patrizio Conella di Antigone, Emilio Di Somma, il vice capo vicario del DAP, voi tutti, perché a casa vi siete beccati questa puntata. Molti non hanno capito bene perché il problema delle carceri debba essere messo in testa alla priorità. L'inciviltà e la violazione delle leggi è uno dei punti su cui, quando lo Stato non è in grado di fare quello che promette e scrive nelle sue leggi, fa l'opposto, siamo sempre lì, è uno Stato corruttore. Questa è la mia opinione. Grazie in regia a Roberto Scaltritti, grazie in redazione Alessandro Marco Tulli. L'appuntamento a domani, linea Giornale Radio. Radio 24, la passione si sente.